Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Perché una condizione accettabile, una condizione efficiente come servizi, come condizioni, come organizzazione dei... Ecco, il futuro è questo. E loro hanno diritto ad avere... No, se piange va benissimo. Non se ne vada, signora, sia qui. Hanno diritto ad avere una condizione che sia uguale a quella che si ha nei grandi centri urbani. E aveva diritto a dire anche la sua, questo bambino, evidentemente, il 25 aprile, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una data così importante, anche se molti, qualcuno anche in passato aveva detto ma forse è da abolire. Voi che cosa ne pensate? È effettivamente una data che ci ricorda qual è il cuore, il senso anche della nostra democrazia, e non bisogna mai abbassare la guardia comunque rispetto a certi valori, o a voi sembra in realtà una delle celebrazioni, una data ormai obsoleta? 349-238-6666, il numero per i messaggi e per i WhatsApp, 349-238-6666. Poi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, perché Effetto Notte e Roberta Giordano non vi abbandonano neanche il 25 aprile, quindi nessuna giornata di festa, anche se la festa si sente, pur di non lasciare le ascoltatrici e gli ascoltatori senza informazioni. Quindi, come sempre, ci sarà un quadro esauriente della giornata, le notizie più importanti di oggi. Questo è il tema che vi sottopongo questa sera, essendo appunto il 25 aprile. Mattarella, lo avete sentito, era lì in Valsesia, in Piemonte, per ricordare che nel mese di settembre del 1943 lì nacque una prima forma di repubblica, quindi un'antesignana di quella che poi è diventata la democrazia italiana, e ricordava che anche in quei piccoli borghi ci devono essere gli stessi servizi, la stessa funzionalità che c'è nelle grandi città. Parleremo anche del vertice di Hannover, del G5, dove c'era anche Renzi. Si è parlato di emergenza immigrazione, di questa richiesta da parte della Libia di aiuto per salvaguardare i pozzi di petrolio. Capiremo poi che cosa significa per la Libia anche e per noi. Obama ha detto che c'è la NATO, i mezzi della NATO a disposizione per cercare di contrastare gli scafisti e i mercanti di esseri umani. Ci occuperemo anche di quello che è successo, di scontri che sono stati a Milano appunto relativi al 25 aprile, perché è ancora una data così divisiva, continua ancora a distanza di anni. Divisioni ci sono anche in altri ambiti, sia tra la politica e la magistratura, sapete che si è rinfocolato un po' il dibattito in questi giorni, e poi anche nel centrodestra a Roma, con Berlusconi che continua a sostenere Bertolaso e dice ma noi non siamo la destra, riferendosi a Salvini, noi siamo i moderati. Insomma, un sacco di argomenti anche oggi, mentre voi fate le vostre riflessioni. Cosa significa per voi il 25 aprile? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, vi riassumo la giornata. Emergenza migranti al vertice di Hannover, sostegno dei leader del G5 al governo di Tripoli, e Renzi sottolinea da Obama via libera all'impiego di mezzi NATO per bloccare il traffico di uomini e scafisti. Le celebrazioni del 25 aprile, Mattarella sottolinea, è sempre tempo di resistenza. A Milano contestata la brigata ebraica, attenzione al corteo. E poi le tensioni tra la politica e la magistratura. Renzi dice è finito il tempo della subalternità ai PM, e a Davigo dice faccia nomi e cognomi. Novità del Movimento 5 Stelle, Grillo spegne il sito, arriva il blog delle stelle Voce del Movimento, annuncio di Davide Casaleggio. Liguria, è finita l'emergenza petrolio, ma ora per più di 200 lavoratori Iplom inizia la cassa integrazione. Cinema, nella giuria di Cannes anche l'attrice italiana Valeria Gollino, e per il calcio la Juventus fa festa, con quinto scudetto consecutivo Buffon esulta e dice è il più bello di tutti. Partiamo quindi dal vertice del G5 ad Hannover in Germania sull'emergenza immigrazione, e non solo, perché i tre temi, si è parlato della minaccia lanciata dallo Stato Islamico ai pozzi petroliferi libici, la vittoria dell'estrema destra al primo turno alle presidenziali in Austria, e quindi questo vertice formato G5, cinque paesi appunto, ha visto per due ore Merkel, Obama, Renzi, Hollande e Cameron fare un punto di coordinamento sulle iniziative per governare la crisi nel Mediterraneo e il flusso dei migranti che soffia sul fuoco del populismo. La preoccupazione per la Libia e le possibilità di sostenere il governo di Fayez al-Sarraj sono state tra i principali temi di discussione in questo vertice, cui il premier Renzi è arrivato fresco di una conversazione telefonica proprio con al-Sarraj, che nelle ore precedenti aveva lanciato un appello alle Nazioni Unite, l'UE e i paesi africani affinché intervengano per proteggere le risorse petrolifere del paese. I pozzi di Eni non sono in pericolo, ha detto Renzi, rassicurando poi il governo libico. Gli Stati Uniti d'America insieme ai quattro paesi membri del G7 danno un endorsement significativo e pieno al governo di al-Sarraj. La questione libica è di fondamentale importanza anche per la gestione dei flussi migratori. Con un governo stabile si potrebbero fare accordi precisi, ha detto il premier, annunciando la disponibilità degli Stati Uniti a impiegare la NATO per bloccare il traffico di uomini nel Mediterraneo. Interpellato sulla svolta a destra dell'Austria, Renzi ha risposto che il voto del popolo va rispettato e quanto alla chiusura del valico del Brennero saranno le istituzioni europee a prendere le conseguenze necessarie. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Quindi cosa cambierà rispetto ai flussi migratori, alla Libia, ai nostri rapporti con la Libia? Ne parleremo più tardi qui a Effetto Notte. Intanto, il giorno dopo la vittoria della destra austriaca, Vienna annuncia un nuovo intervento sulla frontiera del Brenner. L'Austria ha reintrodotto i controlli alla frontiera ungherese. La polizia controlla i veicoli sui principali punti di accesso e i militari pattugliano alcuni tratti del confine. Questo è il primo effetto della vittoria dell'estrema destra xenofoba al primo turno delle elezioni presidenziali a Vienna. Norbert Hofer, l'erede di Jörg Haider, ha raccolto il 36% dei voti. Secondo è arrivato Alexander Van der Bellen, il candidato verde che con il 21% dei consensi andrà al ballottaggio il 22 maggio. Ma che accadrà a quel punto? Probabilmente i voti dei partiti tradizionali, i socialdemocratici e popolari, usciti con le ossa rotte dal voto, confluiranno sul candidato verde per fermare l'onda xenofoba. La stessa manovra che consentì a Jacques Chirac di vincere su Jean-Marie Le Pen nelle presidenziali francesi del 2002. La storia si ripete, ma ora Vienna minaccia di chiudere il Brennero, dove transitano 140 miliardi di euro di interscambio all'anno e per l'Italia sarebbe un duro colpo che non potrebbe essere lasciato passare senza reagire. Vittorio Darol, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le celebrazioni del 25 aprile, una giornata di festa ma anche di polemiche tra Roma e Milano, è un paese che ritrova lo spunto per antiche e nuove divisioni. Celebrazioni e musei aperti in tutta Italia, ma contestazione al corteo di Milano, mentre a Roma la brigata ebraica si sfila e va via Tasso. Il 25 aprile unisce e divide anche quest'anno, ad iniziare il ricordo della festa della liberazione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'altare della patria. È sempre tempo di resistenza, perché guerre e violenze crudeli si manifestano ai confini d'Europa, in Mediterraneo, in Medio Oriente. E ovunque sia tempo di martirio, di tirannia, di tragedie umanitarie che accompagnano i conflitti, lì vanno affermati i valori della resistenza. Per il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, l'antifascismo è l'elemento costitutivo e irrinunciabile della nostra società. Ma Matteo Salvini della Lega attacca e dà degli ipocriti a Renzi e Mattarella. Sono complici di una nuova occupazione, servi dell'Unione Europea. A Roma la brigata ebraica preferisce evitare il corteo dell'Associazione Nazionale Partigiani, mentre a Milano ci sono contestazioni da parte dei centri sociali, ma sia il candidato PD Giuseppe Sala che quello del centrodestra Stefano Parisi parlano di contestazioni dei soliti noti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi ci torniamo col promotore della alla partecipazione della brigata ebraica al corteo di Milano. Torniamo su questo episodio. Siamo alla politica italiana con le tensioni tra politica e magistratura. Renzi dice è finito il tempo, in un'intervista a Repubblica, è finito il tempo della subalternità ai PM e inoltre incita Davigo a fare nomi e cognomi di quelli che secondo lui sarebbero politici corrotti, politici che rubano. Intanto c'è una novità nel Movimento 5 Stelle perché arriva il blog delle stelle, voce del Movimento movimento e l'annuncio di Davide Casaleggio, figlio del scomparso Gian Roberto Casaleggio. Parleremo di entrambi questi temi, sia di questo scontro che continua tra politica e magistratura e sia appunto di questa novità che riguarda i 5 Stelle. Ora spostiamoci all'estero, in Egitto. La giornalista Basma Mostafa, che aveva intervistato la famiglia presso la quale erano stati trovati documenti intestati a Giulio Regeni e che aveva detto questa famiglia che erano stati messi lì dalla polizia, loro non avevano rapito Regeni, e altri 6 colleghi di questa giornalista sono stati arrestati vicino Piazza Tahrir. È stato il marito di Basma a twittare la notizia. Tra gli arrestati anche 5 aderenti al Partito Socialista Democratico e 12 dei 47 attivisti e giornalisti contro i quali il procuratore generale ha emesso ordini di cattura. Come vedete, l'Egitto non perde il vizio. Di nuovo in Italia, dopo 7 giorni dalla rottura della condotta petrolifera gestita dalla Iplom, che il 17 aprile aveva sversato nel torrente Polcevera e nel rio Fegino 550 tonnellate di greggio, 50 delle quali finite in mare, dopo la paura di veder morire il mare e stroncare una stagione turistica promettente, alla fine è rimasta solo una piccola chiazza di sfilacciamento a 10 km al largo di Varazze. Una settimana dopo la rottura della condotta petrolifera gestita dalla Iplom, che ha sversato nel torrente Polcevera e nel rio Fegino 550 tonnellate di greggio, 50 delle quali finite in mare, per Genova e il Mar Ligure ci sono buone notizie. È stato infatti revocato anche per la provincia genovese lo stato di emergenza locale proclamato domenica scorsa e la situazione sta dunque tornando alla normalità. Dopo il lavoro delle imbarcazioni antinquinanti è rimasta solo una piccola chiazza di sfilacciamento a 10 km al largo di Varazze. Ma non si può dire che sia finita, ci sarà infatti da bonificare gli alvei dei torrenti dei rii. Come dichiarato dal governatore ligure Toti, sicuramente c'è una quantità di prodotto significativa sui fondali del Polcevera, del Fegino e infiltrazioni più in profondità. Occorrerà quindi verificare la falda e i terreni circostanti. Ma ci sarà anche da capire cosa sia successo davvero il 17 aprile scorso e anche quale sarà la sorte degli oltre 200 lavoratori della Iplom che verranno probabilmente messi in cassa integrazione fino a quando l'azienda non riaprirà i battenti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al cinema. Valeria Golino fa parte della giuria del 69esimo Festival di Cannes e gli organizzatori del festival hanno annunciato gli 8 membri che affiancheranno il presidente George Miller. Saranno 4 uomini e 4 donne, tra cui appunto la nostra Valeria Golino, l'attrice italiana. Un modo forse anche per compensare il fatto che non sia candidato nessun film italiano al massimo premio, che è la Palma d'Oro. Ci sono in altre sezioni ma non nella corsa principale. Musica. La morte di Prince. Il cognato rivela che non ha dormito per 6 giorni di fila, 6 giorni quindi senza dormire per la star scomparsa nei giorni scorsi, e fra le cause a parlare delle possibili cause è Drew Pinsky, medico specialista in dipendenze e problematiche legate agli stupefacenti, e dice a suo parere che la star di Minneapolis potrebbe essere stata uccisa da un uso fuori controllo di antidolorifici oppiacei, probabilmente, dice, una combinazione di oppiacei orali e benzodiazepine in un comune farmaco. È un mix estremamente pericoloso perché impedisce di respirare e si muore, ha aggiunto il medico, precisando che forse Prince soffriva di un problema di salute cronico come cancro o malattie cardiache. Avremo la nostra risposta a tempo debito, aggiunto. Molti osservatori ritengono infatti sia da escludere l'ipotesi della classica overdose legata a un utilizzo ricreativo, diciamo così, delle droghe, perché Prince era un salutista vegano molto attento al suo benessere fisico. E c'è nella musica un altro addio. Me and Mrs. Jones. Got a thing going. È morto Billy Paul, noto al grande pubblico proprio per questa bellissima canzone Me and Mrs. Jones. L'artista si è spento a Blackwood nel New Jersey, 80 anni. Paul era uno dei tanti artisti cresciuti sulla scena soul di Philadelphia grazie al team di Kenny Gamble e Leon Huff. Il suo maggior successo, una ballata che racconta di una relazione extraconiugale, fu pubblicato nel 1972 e rimase in cima alle classifiche per molto tempo, garantendogli anche una vittoria ai Grammy come migliore voce rhythm and blues. Me and Mr. Jones, che state sentendo, è stata anche proposta poi negli anni da numerosi artisti, talmente è bella. Per chiudere, chiudiamo con il calcio, con la vittoria della Roma sul Napoli per 1-0. La Juventus conquista automaticamente il suo 5º scudetto consecutivo. Il portiere Buffon ha detto è senz'altro il più bello. Poi dedicheremo un po' di spazio naturalmente anche a questa notizia, alla felicità degli juventini. Direi che prima di lasciarci per aggiornare chi sta viaggiando, magari tornando da questo fortunato ponte, per chi ha potuto staccare per qualche giorno, e anche per chi è al lavoro, per chi sta mangiando, per qualsiasi cosa stiate facendo da qualsiasi parte del mondo, stiate ascoltando Effetto Notte, perché sapete che si ascolta a ogni latitudine. Volevo leggere i vostri messaggi a proposito di quello che secondo voi è il significato del 25 aprile. Dice un ascoltatore: il 25 aprile ci siamo liberati dai fascisti e ci siamo fatti invadere volontariamente dagli americani. Oddio, in parte però gli americani hanno dato un bel aiuto poi effettivamente all'Italia, che volenti o nolenti. E invece un altro messaggio: forse ora come ora era meglio rimanere sotto i tedeschi di allora, però vorrei ricordare era un altro tipo di tedeschi. Poi il 25 aprile è una festa mancata e ipocrita, noi italiani abbiamo scatenato la guerra ma non l'abbiamo terminata. Poi un altro messaggio: proprio nel momento in cui la politica piace meno si conferma la partecipazione al 25 aprile, posso pensare di non andare, adesso lo apro perché è un WhatsApp, posso pensare di non andare a votare ma non manco mai al corteo del 25 aprile. Andrea da Milano. E qualcun altro l'ha chiesto: ma che domanda, come si può pensare che possa per certuni essere obsoleta la festa del 25 aprile? Beh, devo dire che tra i più giovani purtroppo ha un po' questa accezione di qualcosa che ha un po' di ruggine. E poi vi ricordo che nel 2011 il governo Berlusconi accolse un ordine del giorno del parlamentare bolognese del PDL Fabio Garagnani, che conteneva la proposta di sostituire il 25 aprile col 18 aprile 1948, giorno delle elezioni politiche vinte dalla DC di De Gasperi, che vabbè è importante anche quello, ma tutto comunque un altro significato, no, rispetto al giorno della liberazione che è il 25 aprile. Voi che significato date a questa data, anche oggi come oggi? 349-238-6666 è il numero per i messaggi e per i WhatsApp, oppure c'è per voi comodamente Giorno e Notte, la pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Adesso cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti con gli ospiti man mano, un sacco di temi che vi elencavo all'inizio. E volevo leggere ancora i vostri messaggi, continuano ad arrivare sulla pagina Facebook di Effetto Notte, così come i WhatsApp e gli SMS a questo numero che è il 349-238-6666. Paolo che scrive, la domanda che vi sottoponevo questa sera è: che significato ha per voi il 25 aprile? Per qualcuno è ancora divisivo, per qualcun altro invece sono celebrazioni obsolete, vi dicevo. Che significato invece ha per voi? Per esempio Paolo scrive: 25 aprile, tanti punti interrogativi, e che roba è? Per dirvi qualcuno anche come vede che significato dà questa data. Andy dice: ma i più giovani non sanno chi sono i democristiani. Poi ancora altri messaggi. Sofì dice: quando festeggeremo la liberazione dal comunismo? Sofì dice che siamo effettivamente, secondo Sofì, sotto il comunismo. Emanuele: che cosa si festeggia il 25 aprile? Che l'Italia è occupata da decine di basi americane, per questo avrebbero combattuto i partigiani e il Regio Esercito, l'unica festa nazionale vera è il 4 novembre secondo Emanuele. Vedete che sono vari i punti di vista. Allora io direi, adesso vi ricordo, se avete acceso adesso anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti, e poi cominciamo con i primi temi e i primi ospiti. La Libia che chiede aiuto per i pozzi petroliferi, per queste minacce dell'ISIS, arriva il sostegno del G5 da Hannover con anche Renzi che dice l'Italia è sensibile a queste richieste, e poi nel frattempo forze della Gran Bretagna sono pronte ad attaccare a Sirte. Vienna riavvia i controlli al Brennero, Renzi dice si fermi o interverrà l'Unione Europea, e anche il presidente americano Obama da Hannover rincara, dice i muri non servono e si dice disponibile all'uso dei mezzi della NATO per gestire il flusso dei migranti. 25 aprile, presidente Mattarella sottolinea che è sempre tempo di resistenza. A Milano intanto è stata contestata la brigata ebraica, c'è stata un po' di tensione al corteo, ne parleremo poi in Effetto Notte. Proteste anti-ISIS al Cairo, lacrimogeni e arresti in Egitto, a piazza Tahrir fermata e rilasciata anche la giornalista del caso Regeni, per il momento quindi la notizia che è stata per fortuna rilasciata, insomma. Poi Renzi di nuovo sullo scontro tra magistratura e politica, dice è finito il tempo della subalternità ai PM, e sollecita Davigo, il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, con cui c'è stato questo botta e risposta in questi giorni, a fare nomi e cognomi dei politici che ritiene corrotti. Scudetto la Juventus, il quinto di fila. E poi provata la teoria di Hawking sui buchi neri, il Nobel vicino al Times potrebbe essere la volta buona per lo scienziato britannico. Il celebre fisico britannico, costretto sulla sedia a rotelle a comunicare tramite una macchina, può sperare di agguantare l'unico riconoscimento che gli manca. E adesso saluto subito Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. Oggi in Germania, ad Hannover, dicevamo, c'è stato il G5, un importante vertice sull'emergenza migranti, quindi un gruppo di cinque nazioni, vi erano i leader di queste cinque nazioni, Stati Uniti, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia, quindi è stato un vertice a cinque tra Renzi, Obama, Merkel, Hollande e Cameron. Si è parlato soprattutto dell'emergenza immigrazione e si è parlato anche molto di Libia, perché abbiamo sentito che la Libia ha chiesto ufficialmente all'ONU e all'Europa di essere aiutata per il nuovo governo, no, di Serraj, per salvaguardare i pozzi petroliferi, perché ci sarebbe questa minaccia dell'ISIS. Dal G5 Renzi ha detto sono tutti unanimamente disponibili ad aiutare. Non so poi se ci metto un po' di malizia, Alberto Negri, a dire che probabilmente per salvaguardare i pozzi petroliferi un po' tutti, no, sono disponibili, mi sembra, non soltanto in Libia. E poi è arrivata anche la disponibilità di Obama a usare mezzi della NATO per cercare di aiutare anche l'Europa a gestire il flusso dei migranti. Ma partiamo dalla Libia, da questa richiesta e da quanto deciso dal G5. Ma il G5 non ha deciso niente, non ha deciso assolutamente niente. Ha deciso soltanto, espresso, ma neanche ufficialmente, perché io non ho visto nessun documento uscire da questo G5, ma solo delle dichiarazioni singole, che c'è stata questa richiesta da parte di Sarraj alle Nazioni Unite per intervenire a proteggere i pozzi petroliferi offshore. Offshore vuol dire fuori dalla terraferma. Che cosa significa? Questo non l'abbiamo ancora capito, perché potrebbero essere quelli dell'ENI, ma Renzi dice che quelli dell'ENI. Allora saranno i terminali che stanno dalla parte della Cirenaica a Bregas, Raslanuf, cose di questo tipo. Però è ancora una richiesta molto confusa. Guardate, badate bene, non crediate che questa è ancora una richiesta ufficiale alle Nazioni Unite. È l'espressione di Sarraj, però bisogna vedere se è sostenuto da un governo e soprattutto da delle milizie che accettano una cosa di questo genere. Io ho l'impressione che sia una mossa fatta più che altro per far capire che sono lì, che esistono, e che non vogliono che il generale Haftar arrivi a Tripoli a conquistare da Bengasi, dalla Cirenaica, a conquistare la Tripolitania. Quindi dici non tanto l'ISIS ma gli avversari di questo governo a Tripoli, perché ancora non è consolidato. Ma non c'è dubbio, non è consolidato, ha occupato 3-4 ministeri, bisogna ancora vedere come va. Oggi hanno novera, in realtà, come in tutti i castelli che si rispettino, giravano dei fantasmi. E c'erano tre fantasmi che giravano. Uno era quello del nazionalismo, l'altro del populismo e il terzo quello della xenofobia. C'erano i tre fantasmi che alitavano sul collo dei quattro leader europei, più o meno chiamati in un breve periodo di tempo a delle elezioni, ben sapendo che la destra populistica, quella estrema estesa, sta facendo grandi passi in avanti in tutta Europa, come dimostrato ieri in Austria, ma al primo turno del presidenziale, ma anche in Serbia e in altre regioni di questa Europa. Cioè erano lì per cercare di avere una mano da Obama a cercare di contrastare queste tendenze di ascesa della destra xenofoba e populista che si sta manifestando in tutta Europa. Alberto, quindi la speranza che la Libia si stia stabilizzando e che quindi sia possibile fare un accordo con la Libia, come è stato fatto da parte dell'Unione Europea con la Turchia, per coordinare la gestione dei flussi di migranti, è una cosa ancora lontana da venire, ancora non possibile. Ma insomma, ragazzi, la Libia è divisa in due parti almeno. Ai Cirenaica c'è Tobruk, il governo di Tobruk sostenuto al generale Haftar dagli egiziani, e dietro alle spalle c'hanno i francesi. Questi non hanno ancora votato a favore del governo Sarraj che sta a Tripoli. Quindi questo è un paese minimo spaccato in due, minimamente spaccato in due. In mezzo alla Sirte c'è il califfato, Quindi non mi pare che si possa parlare di stabilizzazione. Si spera, è venuto qui il vice primo ministro Maitig, il vice di Sarraj, che è un altro uomo d'affari, a dire che l'Italia ha ragione, che forse bisognerebbe fare un accordo sui migranti come era già stato fatto con la Libia di Gheddafi, ma insomma sono tutte le cose che dicono quelli che dopo aver versato il latte si sono pentiti, cioè si sono messi in mano, inglesi, francesi, turchi, emiratini, a tutti i protagonisti possibili, il paese è sframmentato e adesso si rivolgono all'Italia nella speranza che l'Italia in qualche modo gli dia anche un minimo di rappresentatività a questo governo, ci speriamo, ma dire che è stabilizzata la Libia mi sembra un'affermazione grossa come una casa. Grazie Alberto Negri, sembra molto chiaro, ciao Alberto. Ciao. Adesso stavo guardando anche i vostri messaggi, sempre sul 25 aprile. Ciao Roberta, scrive su WhatsApp questo ascoltatore Stefano da Genova. Giusto ricordare le persone che hanno da insegnarci a combattere per la libertà. Noi oggi non siamo nemmeno in grado di far desistere questi governi di viziati che impoveriscono continuamente la gente che lavora. Poi sempre sul 25 aprile scrive un altro ascoltatore WhatsApp 349-238-6666, 25 aprile festa dell'occupazione comunista dell'Italia da abolire. Ecco, queste sono le risposte che danno appunto alcuni ascoltatori dal loro punto di vista e rispondono anche a un ascoltatore che prima aveva scritto ma chi potrebbe mettere mai in discussione il 25 aprile. Poi invece dice un altro ascoltatore, Marco Di Lenardo, oggi esiste solo una festa a San Marco, mi sembra che sia stato detto da un consigliere leghista, tra l'altro lo leggevo in qualche agenzia durante la giornata, adesso non ricordo esattamente con tutte le cose che leggo. Continuate con le vostre riflessioni, che cosa significa per voi oggi il 25 aprile, e ne parliamo anche con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, promotore della partecipazione della Brigata Ebraica al corteo di Milano. Ma prima sentiamo questo file. Ecco, queste che sentite in un giorno che dovrebbe essere appunto quello del 25 aprile di pace, di condivisione, di orgoglio unitario, insomma, come in effetti è stato in tante città d'Italia, sono le contestazioni di alcuni appartenenti a gruppi di antagonisti antisionisti e per la liberazione della Palestina oggi contro la Brigata Ebraica che sfilava a Roma nel corteo nel corteo del 25 aprile, insieme a un migliaio di persone che hanno sfilato appunto per celebrare i 71 anni della liberazione. C'erano esponenti politici della campagna elettorale a Milano, un gruppo di rifugiati, gonfaloni di Milano e di altri comuni italiani in prima fila nella resistenza, e in piazza San Babila a Milano a un certo punto c'è stata questa contestazione. Dicevo, ne parliamo con Eyal Mizrahi, che è presidente della Federazione Amici di Israele e promotore della partecipazione della Brigata Ebraica al corteo. Buonasera Mizrahi. Buonasera. Come è successo? Perché c'è stata questa contestazione? Ma queste contestazioni ci sono dal primo anno in cui abbiamo partecipato sotto lo striscione della Brigata Ebraica al corteo del 25 aprile a Milano. Sto parlando di 12 anni fa. Ma c'è da dire che mentre 12 anni fa, con la nostra prima partecipazione, le persone che hanno cercato di offendere la Brigata Ebraica e la nostra presenza erano cosparse un po' su tutto il tragitto, man mano che passano gli anni il loro numero sta diminuendo e praticamente sono rimasti pochi irriducibili che insistono in questa aberrazione storica, perché di aberrazione storica si tratta. Tra l'altro a parte appunto le leggi razziali contro gli ebrei in Italia che portarono poi alla morte di quasi 4.000 ebrei italiani, no? Però anche la Brigata Ebraica combatté in Italia nel 1945 per liberare l'Italia dalla dittatura fascista, dal nazismo. Sì, la Brigata Ebraica si è approdata in Italia a Taranto, è salita tutto la Stivale. Era proprio una brigata autonoma ma inquadrata dentro l'esercito inglese, aveva le sue insegne e la sua bandiera, e alla fine verso l'ultima parte della guerra ha combattuto in Emilia Romagna, ha aiutato la liberazione dell'Emilia Romagna, c'è anche un cimitero se non sbaglio a Ravenna con i caduti della brigata, E c'è da dire che la bandiera su cui, con cui questa brigata ha combattuto era proprio la bandiera del futuro Stato di Israele, quella Stella Davide e le strisce azzurre. E quella che oggi ha creato forse anche questa reazione, probabilmente? È quella che ha creato oggi la reazione. Anzi, precisare una cosa. Allora, dall'anno scorso, fino all'anno scorso abbiamo sfilato con le bandiere israeliane. Dall'anno scorso, per poter inserire, far venire con noi anche, diciamo, la parte sinistra sia della comunità ebraica che della società civile, compreso il PD, ho dovuto inventare la bandiera della brigata ebraica, prendendo la spallina della brigata e ingrandendola, facendola diventare una bandiera, sostituendo la bandiera israeliana con la bandiera della brigata, proprio per poter permettere anche le parti sinistre della società a camminare con noi, quelli che vedevano la bandiera israeliana come un pugno nell'occhio, diciamo così. Ma la verità storica è che la brigata ebraica girava con la bandiera israeliana, e la bandiera con cui da 2 anni stiamo sfilando è una bandiera inventata, cioè non esisteva ai giorni della brigata. Ma io ho dovuto fare questo anche per cercare di abbassare il livello di polemica. Yael Mizrahi, è vero che però a Roma e in altre città la vostra brigata non ha voluto sfilare nel corteo del 25 aprile? Noi a Milano abbiamo fatto una scelta diversa, ma rispetto anche la scelta della comunità di Roma e dell'ANED, e quest'anno oltre Roma anche a Udine hanno deciso di rinunciare, perché allora c'è un problema di base, un problema proprio storico. Quando uno entra in corteo della giornata della liberazione e vede bandiere palestinesi e persone che chiamano assassini o fascisti i rappresentanti della brigata ebraica, veramente gli viene voglia di lasciare. Fate conto che nel 1945 proprio i palestinesi e gli islamici erano schierati con i fascisti, con i nazisti, e per cui è proprio un capovolgimento della storia. Mizrahi, mi dica per lei, e poi dobbiamo lasciarci, che cosa significa il 25 aprile? Il 25 aprile è una giornata di gioia, è una giornata di festa, è una giornata di unione. È una giornata in cui tutti gli italiani, di destra e di sinistra, e ricordo, non c'erano solo i partigiani rossi, c'erano anche i partigiani bianchi, tutti hanno combattuto insieme, fianco a fianco, per liberare l'Italia. Ed è una giornata in cui tutti insieme, fianco a fianco, devono festeggiare la liberazione. Chiarissimo. Facendola scivolare a polemiche politiche e denaturare la natura della festa stessa. Grazie Yael Mizrahi, la ringrazio del suo intervento. Prego, buonasera. Grazie, buona serata. E a proposito invece dei vostri interventi, tramite messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666, che è il numero per gli sms e WhatsApp, Elena dice: che cosa significa per me il 25 aprile? La liberazione dal fascismo e dalla guerra che il fascismo aveva voluto, e sono grata a tutti gli uomini e le donne che, mettendo a rischio la propria vita e morendo anche, hanno permesso a noi di essere liberi. Usiamo bene la libertà che abbiamo. Rita dice: significa la libertà di poterti rispondere, di andare a votare, di pensare con la mia testa, e non è poco. E da ricordare per sempre il 25 aprile, dice Rita. Roberta, diccelo tu, sei in pericolo. Cosa posso dirvi? Se sono in pericolo i valori, certamente bisogna rimanere vigili, mi auguro di no. Saluto le partigiane Tina Anselmi e le altre. Continuate con i vostri messaggi, con le vostre riflessioni su cosa, che significato ha per voi il 25 aprile. Per esempio Mari al 349-238-6666 scrive: non ha nessun significato, una festa fasulla, non rappresenta la verità. Ci sentiamo un momento. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice, anche Roberta Giordano, da ovunque voi stiate ascoltando Effetto Notte. Passiamo tra poco ad altri temi rispetto a quelli di cui abbiamo parlato prima, però c'è sempre la domanda per voi: che cosa rappresenta per voi il 25 aprile? Leggo due messaggi proprio contrapposti. Dice per esempio questo ascoltatore: se ogni anno la festa della liberazione finisce per scatenare divisioni e polemiche tra contrapposti schieramenti, non sarebbe forse opportuno pensare di eliminarla? Certo, mi dispiacerebbe molto perché è una festa immensamente importante, ma non se ne può più di assistere a questi scontri ogni anno. Quindi questo ascoltatore è troppo divisiva. Poi invece Paolo Martinez, e sapete, continuate a scrivere sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia i messaggi WhatsApp al 349 238 6666, dice: Paolo, ringrazio tutti quelli che hanno lottato e sono caduti per la nostra libertà. La festa del 25 aprile ci aiuta a ricordare che la libertà e la democrazia vanno difese giorno per giorno. Io adesso vi ricordo invece tra pochissimo quali sono i titoli più importanti della giornata, se avete acceso adesso la radio, e poi cominciamo a parlare di delle notizie, le notizie politiche di inizio settimana, insomma. Emergenza migranti al vertice di Hannover, in Germania sostegno dei leader del G5 al governo di Tripoli, e Renzi sottolinea da Obama via libera all'impiego di mezzi NATO per bloccare il traffico di uomini e scafisti. Le celebrazioni del 25 aprile, Mattarella sottolinea, è sempre tempo di resistenza. A Milano contestata la brigata ebraica, ne abbiamo appena parlato, tensione al corteo. E poi lo scontro tra politica e magistratura, Renzi dice finito il tempo della subalternità ai PM, e a Davigo dice faccia nomi e cognomi. Novità nel Movimento 5 Stelle, ne parleremo tra pochissimo. E poi la Liguria, è finita l'emergenza petrolio, ma ora per più di 200 lavoratori dell'Iplom inizia la cassa integrazione. Cinema, nella giuria di Cannes anche l'attrice italiana Valeria Golino. Calcio, la Juventus fa festa al quinto scudetto consecutivo. Ora con Pietro Salvatori, giornalista dell'Huffington Post. Buonasera Pietro. Buonasera, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Lavora anche lui il 25 aprile. Allora parliamo di politica, tra una piccola novità o grande novità, ce lo dirai tu, che riguarda i 5 Stelle, e una a volte ritornano invece, che riguarda appunto queste tensioni redivive tra politica e magistratura, rinverdite in questi giorni da interventi sia di Renzi e anche del neopresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Piercamillo Davigo. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, c'è una prima novità che arriva dopo la scomparsa del cofondatore Gianroberto Casaleggio. Il figlio Davide, sul quale ci si è subito interrogati se potesse effettivamente essere il suo erede, il suo successore in toto, ha annunciato, il figlio Davide, l'arrivo di un blog delle stelle che prende il posto, quindi non si è capito se si spegne o prende semplicemente il posto, sono due cose distinte, del blog di Beppe Grillo.it come voce in rete del Movimento 5 Stelle. Intanto chiariscici questa cosa. Sì, sostanzialmente come hai detto tu, cioè è il primo passo fatto tra l'altro in maniera significativa da Davide Casaleggio, cioè dal figlio di Gianroberto, del post Gianroberto Casaleggio. Poche parole, si dice che il blog di Beppe Grillo, che fino ad oggi è stato in qualche modo, come si può dire, l'ultima istanza del Movimento 5 Stelle, quello che dettava la linea politica, che decideva delle espulsioni, dei voti per le parlamentari, le comunali, insomma gli organi elettivi, verrà sostituito da un altro sito che si chiamerà appunto, come hai detto tu, Blog delle Stelle, la cui proprietà non sarà in mano alla Casaleggio Associati. Adesso bisogna capire a chi, se a questa, perché è stata annunciata contestualmente la nascita di una fondazione che dovrebbe gestire Rousseau, cioè il portale partecipativo del movimento, per cui ancora non si è capito bene se questa nuova piattaforma sarà di gestione di questa fondazione piuttosto che del gruppo parlamentare. Fatto sta che la novità sostanziale è che non verrà più insomma gestita e anche in qualche modo amministrata economicamente dal Casaleggio Associati, ma verrà aperta una sottoscrizione, come ha annunciato lo stesso Davide oggi, per cui verranno chiesti banalmente soldi e contributi agli attivisti e ai simpatizzanti dei 5 Stelle. Senti, a parte, con tutto il rispetto a questo nome scelto, Blog delle Stelle, sembra quasi più un sito da star dello spettacolo, però evidentemente no, è anche un po' così. Comunque, beh, questo è discutibile, però insomma, no, per carità, non è quello il punto, no, infatti, il punto centrale. Il punto è un altro, però adesso ti voglio dire alle ascoltatrici e ascoltatori che Davide Casaleggio ha pubblicato uno scritto del padre Gianroberto, sì, in cui dice: tutto è partito da un blog a cui ho dedicato molto del mio tempo ogni giorno negli ultimi 11 anni. Oggi sono, scriveva così Gianroberto, oggi sono decine le voci autorevoli del movimento e per questo è necessaria un'evoluzione di quella che è stata una rivoluzione culturale in Italia. Portare il cittadino a decidere del suo destino. Da oggi nasce il blog delle stelle, di tutti voi, di tutti noi. Quindi era già un'eredità che stava lasciando Gianroberto Casaleggio. Ma l'importanza di questo nuovo blog, ci sai dare la misura, Pietro Salvatori? Beh, è un cambiamento epocale. Il movimento fino ad oggi, il movimento che abbiamo conosciuto, è un movimento che fonda tutta la sua attività, tutte le sue decisioni, l'elaborazione di idee, le indicazioni ai propri quadri, sì, dai parlamentari ai semplici attivisti, sul blog di Beppe Grillo, che è una struttura che conosciamo bene, emanazione del pensiero di Beppe Grillo e del fondatore, e gestita dal cofondatore e quindi dalla Casaleggio Associati. Tutto questo, cioè, inizia diciamo un passaggio, un iter in cui tutto questo non ci sarà più, nel senso che appunto la Casaleggio Associati in qualche modo sembra voler allentare il controllo e soprattutto la fonte primaria del movimento, l'organo ufficiale, la piattaforma non sarà più quella che ha il nome e il cognome di Beppe Grillo, ma sarà appunto, tu dicevi, un nome bizzarro e su questo sono d'accordo, però la cosa in qualche modo indicativa è che non c'è più il nome di Grillo, non c'era più già nel simbolo, non ci sarà più neanche sul blog. L'altro passaggio molto interessante è che questo annuncio lo fa Davide Casaleggio, il cui ruolo si è molto discusso nei giorni scorsi, se avrebbe preso il posto del padre o meno. Ecco che il primo grande annuncio del post Casaleggio lo fa il figlio Davide, questo nelle gerarchie interne, nella grammatica dei 5 Stelle ha un suo peso sicuramente. Ora passiamo invece all'altro tema che conosce varie puntate, quello dello scontro, dicevamo, tra politica e magistratura, no? In realtà è la ripresa di un vecchio conflitto, diciamo che è iniziato più recentemente con Renzi, che in occasione in Parlamento dei voti di sfiducia nei suoi confronti che non sono passati ha parlato anche di un 25 anni di barbarie giustizialista, a proposito perché questi voti di sfiducia ci sono stati relativamente all'inchiesta della Procura di Potenza, no? Su Tempa Rossa. Sì, sì, e lui ha detto così: Davigo, neopresidente eletto dell'Associazione Nazionale Magistrati, ha cominciato anche lui un botta e risposta e poi ha detto i politici continuano a rubare, in realtà, riferendosi a come era invece Tangentopoli, dice ma si vergognano meno di allora. E Renzi in un'intervista a Repubblica non demorde, dice è finita la subalternità della politica nei confronti della magistratura. Ora sentiamo Orlando, il ministro della giustizia, che cerca un po' di mediare. Ministro, le dichiarazioni di Davigo sui politici corrotti segnano un ritorno al passato, ad un nuovo conflitto con la magistratura? Dobbiamo evitarlo e noi faremo di tutto per evitarlo, perché il confronto costruttivo nel corso di questi anni ha consentito di fare dei passi avanti. Questo era Orlando al TG1. Che sta succedendo, Pietro Salvatori? Sono successe una serie di cose, cioè temporalmente l'inchiesta Tempa Rossa, che ha toccato le corde insomma del governo, perché ha coinvolto, insomma, lo sappiamo, no? le dimissioni della Guidi, gli schizzi di fango che sono arrivati per la Boschi, un'opposizione, in particolar modo il Movimento 5 Stelle, che ha cavalcato molto questa vicenda, e quasi contestualmente è stato eletto al vertice dell'ANM Piercamillo Davigo, vecchio volto di Mani Pulite, esatto, che ha alzato sensibilmente il livello dello scontro. Ricordiamoci che Renzi, nella famosa direzione post dimissioni della Guidi, già aveva fatto quello che era sembrato a molti un attacco ai magistrati, no? In cui diceva i magistrati parlino con le sentenze, ci sono tre inchieste su Potenza dal 2004, da diversi anni a oggi che non sono arrivate a sentenze, per cui c'era già stato un primo passo in cui il governo, il Presidente del Consiglio aveva messo in discussione i magistrati, e poi è arrivato Davigo che in qualche modo non ci è andato col fioretto, ecco. Certo. Neanche con la spada, ma direi con la mazza ferrata, dicendo quello che adesso insomma è inutile riassumere. Staremo a vedere se queste puntate procedono o se l'intervento di Orlando, dice faremo di tutto per evitare questo, che riprenda questo scontro, effettivamente poi avranno un riscontro. Ci auguriamo di sì, naturalmente sarebbe bene per tutti. Grazie Pietro Salvatore dell'Affitto Post. Grazie a voi. Ciao Pietro. Grazie a voi, buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E in pochi secondi le più importanti: l'emergenza migranti al vertice di Hannover, sostegno dei leader del G5 al governo di Tripoli, le celebrazioni del 25 aprile, Mattarella sottolinea è sempre tempo di resistenza, a Milano contestata la brigata ebraica, ci sono stati tensione al corteo, gli scontri tra politica, lo scontro tra politica e magistratura di cui abbiamo appena parlato, Renzi dice finito il tempo della subalternità ai PM, a Davigo dice faccia i nomi e cognomi. E poi la novità nel Movimento 5 Stelle, Grillo spegne il sito tra virgolette, arriva il blog delle stelle, voce del movimento è stato l'annuncio di Davide Casaleggio. Storia di un grande amore, bianco che abbraccia il vero, siamo noi. Insomma, non intonatissimi, ma che esprimono tutta la loro gioia, i juventini, per l'impresa della Juventus col quinto scudetto di fila. Carlo Genta, com'è stato possibile, Carlo? È stato possibile, ciao Roberto, innanzitutto senza giocare, quindi in un modo abbastanza strano, perché la Juventus ha vinto lo scudetto facendo allenamento, guardando Roma-Napoli in televisione. Il Napoli doveva vincere per tenere aperto un filo di speranza, invece ha perso a Roma nel finale con il gol di Nainggolan, riaprendo anche la corsa al secondo posto, e da lì si è aperta la festa juventina, 32esimo scudetto secondo i computi ufficiali al netto di Calciopoli, poi lasciamo stare questa vicenda se no qualcuno si arrabbia, comunque 32 scudetti, questo è il quinto di questa saga iniziata con i tre di Conte e ora ci sono i due di Massimiliano Allegri. Questo particolarmente strano, forse anche particolarmente bello, come ha detto Buffon, perché la Juventus era partita malissimo in campionato, era addirittura nelle parti basse della classifica fino a novembre, fino alla partita di Reggio Emilia con il Sassuolo. Da lì c'è stata la scossa guidata proprio da Buffon, che è il simbolo un po' di questo scudetto, sia sul campo perché è stato certamente il miglior portiere del campionato, che fuori perché è stato il grillo parlante della Juventus, quel giorno accusò i compagni più giovani, seguito poi da Bonucci, Evra, quindi dai vecchi storici del gruppo. Da lì la Juventus ha fatto qualcosa che non si era mai visto, cioè 24 vittorie, un pareggio nelle successive 25 partite per tutti, compreso per il meraviglioso Napoli di quest'anno, impossibile tenere questo passo, ed è dunque oggi la Juventus festeggia il titolo del campione d'Italia in questo lunedì 25 aprile, piuttosto strano. Grazie Carlo Genta, grazie. Prego, Carlo. Roberta. E a proposito, poi lo ritrovate tutti i giorni con tutti i convocati alle 14, continuano i vostri messaggi, ma devo lasciare la linea, ci risentiamo per gli aggiornamenti alle 22.